Bentornati e bentrovati, caro Brico Bar. Sento abbastanza. Sì, mi senti probabilmente abbastanza serio, perché abbiamo un microfono solo in due. E questa è la verità, perché gli altri due microfoni sono occupati. Bene, abbiamo due ospiti eccezionali, l'uomo scatola e l'amico dell'uomo scatola. Dai, sentiamole queste voci. Prima un saluto, poi mandiamo un pezzo e poi partiamo con le interviste. Mi tocca parlare come l'uomo scatola. Io dall'uomo amico dell'uomo scatola. Ciao. Siete riconosciuti dalle voci, sono Niccolò e Jacopo di Riciclabili, che sono venuti a raccontarci un po' di progetti che hanno in cantiere, e li interrogheremo anche sul viaggio che hanno fatto l'anno scorso, che mi incuriosisce parecchio. Verissimo, should I stay o should I go? Lo potremmo chiedere direttamente a loro. Che si fa? Sa stare o sa andare? Sa di andare, dai. Vai, facciamo così. Allora, io mando un pezzo per scaldare un pochino l'animo dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici. E poi andiamo con voi. Non solo voi, perché ci saranno anche voci dalle mamme non inceneritore. E forse anche dalle reti al massa. Collegamento interprovinciale in meno. Prato, sì, lontana Repubblica Popolare Platese. Signori, sono gli Algei. The urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fevers greet me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the muffins go? They go along to take your honey. Break down how we build our breakfast down and say, my love, love, love. La la la la, muscle to muscle, toe to toe. Shows, hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine, my love, my love, love, love. La la la, muscle to muscle and toe to toe. Soggy clothes and breeze blocks. Germaline, disinfect the scene, my love, my love, love, love. Please don't go. I love you so, my lovely. Please don't go, I love you so. Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore. Eccoci ritornati. Non ci sono, non mi sento. Ancora in eccoci. Caro, ci sei, ci sei. Allora, e niente, si diceva, abbiamo qui ospiti riciclabili, Niccolò e Jacopo. Ma chi sono i riciclabili? Cosa fanno? Siamo curiosi e iniziamo con questa domanda. Intanto a dobbiamo voi, giocarcela a Morre Cinesi o Iacchio, sì, per chi risponde. Potrete anche fare, c'è la lotta nel fango. Non vengo a guardare. Bene, allora guarda, comincio io così mi tolgo subito dal fango. E sono un gruppo di matti, sognatori. Siamo un gruppo di matti e sognatori, rompicoglioni, affamati, mangiamo tutto quello che incontriamo, pedaliamo fin quanto possiamo pedalare, tutto per andare a divertirci e andare a scoprire posti lontani, lontani, lontani e anche fare un sacco di stupidaggini a giro per il mondo. Siete perfetti per il punto di pedale. Sì, ma infatti nel programma perfetto. Ci siamo attratti così immediatamente. E niente, si parlava già del viaggio dell'anno scorso, che è stato abbastanza impegnativo. Ascoltate bene la colonna, quello che passa sotto, forse potete intuire dove sono andati. Fino a San Pietroburgo in bici da Firenze. Perché? Perché dietro c'è un progetto di scoprire con movimento lento la ex Cortina di Ferro, che è stata una divisione tra Europa dell'Est e Europa dell'Ovest per tanti anni, e in questo periodo dove mi sembra di capire che stiamo sempre andando peggio per quanto riguarda l'integrazione, ci sembrava una bellissima cosa invece unire invece che dividere. E quindi il progetto si è concretizzato non soltanto con una biciclettata, ma anche con una raccolta di testimonianze e interviste delle persone che hanno vissuto questa purtroppo questi anni di guerra fredda. Poi avete raccolto tutto in un documentario, su un sito? Ci stiamo lavorando, a parte tutte le... Con la faccia che c'ha Niccolò ci sta lavorando. Esatto, siamo riusciti a dividerci i compiti, io e Jack siamo speculari ma siamo bravi alla fine a organizzarci, e lui è più bravo, molto bravo con i video e queste cose, a me piace invece tanto scrivere, quindi le due parti, libro e documentario, stanno andando avanti insieme ma con la dovuta calma e lentezza, come il viaggio lo dice. Jacopo? No, che appunto anche quando abbiamo fatto il viaggio ci sono state anche delle dirette, degli articoli scritti on the road, sia su Facebook che sul nostro sito. E però sì, come dicevamo, cerchiamo adesso di coagulare tutto questo enorme materiale che abbiamo raccolto, che è molto variegato, in un video documentario. E Niccolò in un diario di viaggio, e ovviamente poi non è che siamo divisi con compartimenti stagni, però fondamentalmente adesso stiamo lavorando divisi e poi dopo ci confronteremo per combinare le cose. Quanti chilometri alla fine? Quanti sono stati? Allora io forse un po' meno di Yak, ma direi 6.000? No, allora 5.005. Ho messo tutte le tracce che abbiamo registrato su i programmi professionali di tracciamento e vengano fuori 5.400 chilometri. Però il fatto è che gran parte della dislivello l'abbiamo fatto nei primi 2.000 chilometri, abbiamo fatto 34 chilometri di dislivello, che vuol dire che siamo andati avanti con tipo 1.000-1.500 metri di dislivello al giorno. Poi dopo, a metà della Germania in poi, era tutto... Sì, Scusate, mi sembrate un po' troppo seri per come mai? Cosa sta succedendo? Cioè, facci arrivare, facciamo esatto, così, cominciamo. Facciamo così, però io hanno portato con loro un contributo che forse sarebbe il caso di farlo sentire. Vabbè, è il momento, una delle pilloline prese. Allora, per rendersi conto un attimino. Vabbè, andiamola, poi vi spieghiamo da dove arriva. Vai. Non so pulire, però. Cosa ci facciamo qua in questo bosco? Beh, tuttora me lo chiedo e ci siamo da diverse ore. Non saprei. Stiamo facendo in questo bosco? La cacca. In continuazione. Bravo. Dove siamo, Jack? Non lo so. Non lo so. È finita. Però lo strudel è vicino. Sono svegliato qui senza un remo. Questo è un boschetto molto carino. Abbiamo dormito stanotte. Arrivederci. Addio. Ciao. Ciao. Stealth camping. A voi a Roma. Esatto, questa era lo stealth camping, cioè quelli, come dire, il camping selvaggio, illegale, di nascosto. Arrivi di notte, piazzi tende in un boschetto, dorme la mattina. C'erano tutte le regole come fare stealth camping, probabilmente per risparmiare si arrivava anche a fare queste cose qui. Anche stealth couch. Esatto, senza che lo sapessero, ci infilavamo nei frighi delle persone e lì ci conservavamo per una notte. E quindi quello lì è un caso bello di come ci siamo ritrovati in un posto e la mattina ci fosse un po' di tensione, perché ogni tanto succedeva. E infatti, peccato, questo qui è un audio tratto da un video dove si vede io appena sveglio che già rompevo le palle a tutti facendo i video. Quindi c'era Giacomo mezzo ancora addormentato, perché non è che si era dormito benissimo in quella notte, aveva piovuto, c'aveva una tendina mini che filtrava l'acqua, uno schifo. E quindi sono belle le risposte un po' così. Cesar, che era quello che dice la cacca, è quello sempre di buon umore invece del gruppo. Racconteremo il nostro scazzo epico. Sì, no, beh, le cose più divertenti sono gli scazzi, perché va sempre tutto bene in questi viaggi. Gli scazzi sono le cose più belle. È stata una cosa epica, a volte ci penso e ci rido tra me e me. Sì, anch'io. Infatti ci voglio scrivere proprio un capitolo solo su quello, perché è un... Sì. Per evitare gli scazzi, in bici viaggio da solo. Evito, poi alla fine litigo con me stesso. Esatto. Però sì, è lì quando viaggi in gruppo, oltre a litigare con te stesso, litighi anche con gli altri, poi per riflesso, non si sa che nasce prima l'uovo, la gallina o il gallo. però lì eravamo completamente persi in un bosco e abbiamo iniziato a infamarci personalmente. Perché praticamente lo posso dire, certo. No, praticamente aveva incominciato a piovere in Polonia sulla costa come Dio la mandava, forse è stata la pioggia più grossa che abbiamo preso, ed era pericoloso perché non c'era una pista ciclabile da percorrere. Quindi io in tono paterno gli faccio a Nicolò: oh, ma mettiti queste lucine, perché secondo me qua non ci vedono neanche, no? E lui mi fa sì mamma, grazie, papà. E io ovviamente l'ho vista nel momento di stress, ho detto: ma come, io mi preoccupo per lui, e mi fa pure i versettini, le cose. Allora, ma tu, centinaia di chilometri qua, là sotto sopra, insomma, praticamente è partito un litigio per una ragione così del cazzo, insulta, che è andato dentro, cioè, poi abbiamo cercato una via di fuga verso la spiaggia, che poi si è rivelata invece un cul-de-sac micidiale. Esatto, ovvero sia una marcia trionfale come noi abbiamo... verso il pantano, e noi continuavamo a litigare mentre ci si impantanava sempre di più e quindi non se ne usciva più. È stato fin quando siamo arrivati in un punto che eravamo sfiniti dalle cose che ci eravamo detti per sfogarci, dal fatto che non potevamo più andare avanti perché ci eravamo insabbiati, e allora con la coda tra le gambe siamo tornati indietro, e la sera, bevendo una birra, ci siamo fatti una gran risata. Ma scusate, ma la domanda che mi viene spontanea, va bene, voi montate su una bicicletta, durate un botto di fatica, litigate anche, ma chi cazzo ve lo fa fare? Ah, aspetta, questa mi ricorda la domanda che ci fece dal radio DJ. Sì, a me mi fa irritare questa domanda. Certo, ma la faccio apposta, proprio esatto. Perché so che la fanno tutti. Vai, dai la tua versione, Nico. Ma io l'ho data dicendo che eravamo all'inizio, siamo dei matti, quindi perché quello. Non è che hanno... E poi, se voglio dare la risposta seria, invece è quella di Alexander Langer. C'è bisogno di saltatori, di costruttori di ponti e saltatori di muri. Noi quel muro l'abbiamo proprio percorso. E l'abbiamo vissuto, nel senso, non vissuto fino all'89, ma vissuto nel conflitto interiore. E ecco, no, no, ma infatti io. Per quello che lo facciamo, poi, per andare a scoprire cose nuove. Ecco, proprio qua volevo arrivare, nel senso che scoprire nuove cose nuove, sì, va bene, si può fare in tanti modi. Perché proprio in bicicletta? Allora, io devo dire che personalmente mi trovo naturalmente predisposto nel muovermi. E nel passare il tempo muovendomi e faticando per conquistare i metri, i chilometri che faccio, mi trovo più in difficoltà, e per me è più innaturale rimanere chiuso in una stanza in città. Quindi è un discorso di naturalezza col quale si vive la quotidianità. Cioè, per me è stato normale andare su, ora ovviamente sono stati dei momenti di fatica, vero. Però quando ho fatto la tesi per architettura sono stato 3 mesi, 4 mesi chiuso in casa a lavorare, non ero più me stesso. Quindi in realtà forse bisognerebbe ribaltare la cosa e dire che l'uomo è fatto per muoversi. E purtroppo c'è un'inerzia che porta le persone magari a sedersi sempre di più, ma questa cosa va sempre a peggiorare, nel senso che più uno si siede, più che sembra una fatica enorme muoversi. Ma più uno si siede, più diventa Salvini. Oh, e qui esatto. No? Cercavamo di evitare, invece è arrivato. L'uomo è nomade. Siamo tutti. Ecco, penso un modo per combattere queste cose e queste persone qua. E questi modi di pensare qui sia proprio sforzarsi di andare a conoscere i paesi diversi, le culture diverse, i posti diversi, non farlo guardando solo uno schermo o un vetro di una macchina che alla fine può diventare uno schermo quando lo attraversi 500 km in 4 ore. Andare personalmente. Sì. E soffrirci anche un po', nel senso starci nel bene e nel male, non è che è tutto bello in bicicletta. Rifacendomi a una frase trovata sul vostro sito, direi che si può dire che un viaggio del genere è un po' la metafora della vita, no? Diceva Einstein, ho visto sul vostro sito. Cosa diceva Einstein? È il vostro sito, ditelo voi, Niccolò, dai. Niccolò, no, che l'avevi messo per questa, era Marco Lenz. La vita è l'equilibrio. È come, è come la bicicletta. È l'equilibrio che si mantiene solo se ci si muove. Solo se ci Bella si muove. Questa frase, sì. Siamo d'accordo, la stasi è morte, il movimento è vita, ma non sono insomma la stasi nel senso di Cortina di Ferro. La stasi, quella della Germania dell'Est, bravo. Ma posso tornare alle mie domande tecniche, dai, perché vai, io sono curioso. Domanda. Quindi questi metri e metri di dislivello, quando l'avete fatti? Avete fatto un giro sulle Alpi prima? Non le avete attraversate a dritto, scavalcate? Allora, il discorso è che se uno fa la via più facile e breve per andare a Leningrado, è un discorso. Il fatto è che noi... Ah, che bello, l'ha chiamata Leningrado. O Peter, come la chiamano ora, Peter, più europeo, sì. Peter. Se invece si vuole percorrere la Cortina di Ferro, purtroppo questo crinale, spesso è sul crinale ovviamente perché creava una barriera più forte, le pendenze e la difficoltà aumenta perché non è la via diretta per arrivare là, ma è un girigogolo di veramente tremendo. E penso che in alcuni tratti era veramente tosto, non soltanto per le pendenze, perché prendeva a volte le montagne di punta, non avendo nessun obiettivo di normale percorrenza, ma di divisione di due paesi. E poi anche spesso la Cortina di Ferro, questa linea che adesso è diventata l'Eurovelo 13, ripercorre la parte del muro che era dedicato ai mezzi pesanti. Quindi uno con la bicicletta va su queste lastre di cemento armato che fanno ballare la bici tantissimo e quindi è tosto. Sì, poi a lui piaceva più prendere le parti veramente della Cortina di Ferro, quindi in certi momenti ci siamo divisi e lui ha continuato il viaggio in percorsi anche più ardui, terrosissimi, impietratissimi. Aveva anche il fisico, la voglia e la bicicletta glielo consentivano, io invece in certi punti ho deviato, sono andato dritto a Berlino con Cesare e Giacomo perché invece volevo visitare più, quindi abbiamo preso anche parti diverse, ma più o meno la Cortina di Ferro era quella lì. Il bello è che eravamo partiti pensando, va bene, superiamo le Alpi, il resto è in discesa, no. Invece abbiamo fatto il Tarvisio che alla fine è una bellissima pista ciclabile, bello, che arriva in Austria ed è a basse pendenze, arrivati poi al confine tra Germania e Repubblica Ceca, li abbiamo ricominciato a soffrire perché sono montagne di 1200-1300, però era tutti sali e scendi, con pettate importanti. Tra l'altro io ho sbagliato completamente la guarnitura perché ho montato sulla mia bicicletta uno Shimano da corsa, da road, e mi sono trovato con dei rapporti durissimi che ovviamente nel viaggio non aiutano. Quindi io quest'anno ho cambiato tutta la guarnitura, alla fine sono tornato in una versione mountain bike e anzi anche a livello di valigie ho deciso di convertirmi nel bikepacking grazie all'appoggio di un collaboratore, un artigiano del Veronese che ci fa queste borse bellissime. Un grande, fa delle borse bellissime. Kicking Donking, il ciuco scalciante. Che ci scaccia mi sono accorto che sui percorsi difficili le valigie normali volano Io le abbiamo distrutte in 2000 modi. Io fiondo sempre matematicamente sui percorsi difficili, ho deciso di creare un assetto più da mountain bike. E però alla fine hanno retto bene le bici alla grande, erano fatte proprio bene. Cioè, Simoncini e Fanchiotti sono due miti dell'artigianato. Artigianato fiorentino. Fiorentino, sì, toscano, poi sì. Uno è ligure, l'altro è toscano. Però hanno retto, non c'è successo. Si è rotta una catena, si sono rotti un paio di portaborse. E poi a livello di culo. Una ruota, basta, sui 6.000 km. E poi. Perché essendo ora la mia è stata fatta. Il sedere ha retto anche. La tua, te non era sulla tua misura la Fanchiotti, però poco ci mancava. Siamo arrivati senza dolori, a parte un po' il culetto alla fine giornata a San Pietroburgo. Lì c'è sì. Il dilemma della sella. Sella di cuoio, non sella. Vabbè, io la Brooks non l'ho presa perché costa 700.000 euro. Esatto. Quindi, o faccio il viaggio o prendo la Brooks. Esatto. Abbiamo preso delle selle comode e ci siamo trovati bene. Sì, abbiamo ammorbidito abbastanza, dopo un po' ti abitui. Diciamo il minore dei problemi è il dolore al sedere. Ma una domanda, ma su tutto questo, diciamo, camminare in bilico su una frontiere vere che stanno rinascendo in Europa, no? Abbiamo una sorpresa. Sì, abbiamo una sorpresa. No, mi piace comunque, sì, è un po' sul domanda. Politico, giustamente qui a Wombat. A Kaliningrad scadiamo nel politico. Delle cosine. No, ma invece, esatto, bisogna risollevarlo un po' il politico. Mm. No, lo. Ma personalmente, e lo dico velocemente, sento di aver. Che abbiamo passato diverse frontiere ancora esistenti, a parte quelle ovviamente tra l'Austria e l'Ungheria e la Slovacchia, tra la Germania e la Repubblica Ceca, che ancora fai uno zig zag e vedi sempre comunque la differenza tra architettura, lingua, moneta, stili di vita, occhi delle persone, cioè tra la Baviera e la Repubblica Ceca, dove passava la cortina di ferro, è abissale la differenza ancora ovviamente. Ma e poi anche in Germania abbiamo trovato ancora est e ovest una grande differenza, non come da noi nord e sud, ma insomma parlando a volte con alcuni tedeschi dell'ovest, quando gli dicevamo che stavamo andando verso est, ci dicevano andate verso il selvaggio, il far east. E quelli dell'est se la ridevano dicendo da qui vi abbiamo riparato la bici ridendo, offrendoci birre, sistemando con poche decine di euro la cosa. Se sì, fosse stati quello. In Germania ovest avreste sì. Cioè vi avrebbero fatto ripagare tutto. E lì è stato un altro caso di scazzo. Non so se l'ho messo, non l'ho messo. Sì. Che io ho ripreso Jack quando si era distrutta la bici perché l'avevo tamponato. Lì. E riprendevo la bici di lui incazzato. Sì. Riprendevo il viso di lui incazzato. Si gira. Sì. No, lì è colpa mia, nel senso che mi girava incazzati. Un po' le balle perché era una ruota buona andata in frantumi completamente e quindi invece poi non ho apprezzato abbastanza la solidarietà di questo ciclofficina che invece mi ha dato una ruota nuova, 40, no nuova però insomma mi ha rimesso in sella con 40 euro e però mi girava le balle e tante perché, birre giustamente Nicolò rideva perché non vedeva la situazione grave perché non lo era, invece io ero intrippato su questa cosa. E però se posso aggiungere il discorso delle divisioni, no? Certo, no, cioè, abbiamo, sul politico. Io sui paesi baltici ho notato tante ferite aperte, nel senso che veramente dalla Polonia fino alla Russia abbiamo visto con i nostri occhi veramente sono stati rasi al suolo prima dai nazisti e poi dai sovietici che hanno deportato intere popolazioni, intere cittadine. E quindi le persone ancora quando gli parli o della Russia o della Germania insomma hanno le ferite aperte perché voglio dire cioè, i loro cari sono stati portati a migliaia di chilometri di distanza, nessuna città è rimasta in piedi o comunque è rimasta in piedi poco e io mi sono accorto che andando appunto in giro nel nord Europa nonostante abbiamo avuto la guerra in casa noi in Italia abbiamo subito dal punto di vista dei bombardamenti molto meno rispetto a quello che è stato su è stato un disastro, cioè il Kaliningrad per esempio non esiste più a livello di... C'è solo lo stadio ora, ci stanno facendo le partite dei mondiali a Kaliningrad, però sono ferite incredibilmente che se uno non ci va non riesce a capire la magnitudo della sofferenza che c'è stata lassù. schiacciati da due fronti. Sì, sì, proprio il classico zona cuscinetto e le ferite sono aperte, hanno molta diffidenza nei confronti dell'est, penso. Ho sentito sì, molte... hanno un po' la paura che sì, sì, sì. Si stanno riarmando. Sì. E... invece i baltici, Lituania, Lettone, Estonia, beh, si stanno riprendendo. La Lituania è una chicca, c'è cioè tutta la ciclabile lungo il mare, sono centinaia di chilometri lungo costa, è favolosa proprio da viaggio, stupendo. Poi via via che ti avvicini, l'Estonia sono colline perse in cui vai dritto e ti rompi fino a Tallinn. Ma lo vogliamo sentire l'ingresso in Russia? Sì! Vai, sì, sì. Faccio una pre... allora, dovete sapere che ci avevano detto, ragazzi, l'ingresso in Russia vi romperanno le palle, forse non vi faranno entrare, odiano i ciclisti, odiano tutti... Vabbè, insomma, siamo arrivati lì e c'erano solo delle bellissime... Sì, le prime quattro persone che abbiamo visto in territorio russo erano delle grandissime ragazze, bellissime. Sembrava... sono state gentilissime e comunque, vabbè, vediamo che cosa è successo. Sentiamo. La frontiera, ma non posso fare un video troppo esplicito perché sennò ci arrestano. Sto aspettando che anche Jacopo entri in territorio russo e a me mi hanno appena messo il timbro d'ingresso e sono ufficialmente in Russia. Che barba, io posso vedere il video. Io faccio la musica suspense. Sono attimi di trepidante attesa. Siete a mezze mani, eh? No, ma siamo in mezzo. Lo vedo laggiù, appena passato il carrellino. Ora passa dal controllo della dogana. Attenzione perché lo fanno passare. Fanno passare anche lui. E siamo in questo momento. Che passa, tio? Te lo dicevo, no, che no. Siamo in Russia. È una direttina? No, magari. Ma ecco l'emozione quando siamo arrivati, quando ci siamo resi conto. C'è il sole. A parte che c'era il sole e faceva caldo. Poi l'emozione quando siamo arrivati, ci siamo resi conto, ti guardi alle spalle e vedi tutta l'Europa che ti sei fatto per arrivare fin lì, sembra di leggere un romanzo, non sembra di averlo vissuto. Scusa, non era quella giornata in cui abbiamo fatto non so quante... Sì, di strada, bravo. A velocità della luce come dei pazzi per prendere... perché ci siamo accorti che in Russia era veramente devastante cioè fare le strade in bicicletta. Brutto, era brutto. Come andare in autostrada, sì, quindi abbiamo preso, ci siamo un po' tarlati, come si dice in termini tecnici. E avevamo un appuntamento con un bus e per prendere questo appuntamento siamo andati praticamente in autostrada, cosa da non fare, non era una vera e propria autostrada, ma era in pratica, lo era, e abbiamo strada spinto a 40 dissestata con macchine degli anni 60. Nel pieno della nostra allenamento abbiamo tirato come dei pazzi. E siamo arrivati a 2 minuti prima della partenza del bus, perfetto, che ci ha portato poi dentro San Pietroburgo, perché era impossibile arrivarci in bici, erano tipo 30 chilometri di zona suburbana piena di traffico. Secondo me se si faceva il Giro d'Italia alla fine del nostro percorso si faceva io direi di continuare noi due la trasmissione e defenestrare i due conduttori. No, più che altro, voi avete delle cose importanti da dire sul futuro. Sul futuro, se non mi sbaglio. Il futuro. Dai. Ecco, quanti secondi? In quanti secondi? Fai la musichetta di Ritorno al Futuro. Niccolò ha detto alle musiche. Un po' in difficoltà. Vai, ce l'abbiamo fatta. No, Eco Slow Road, prego, da molto lontano. Prego Nico. No, sì, l'Eco Slow Road è un progetto che ci impegnerà per i prossimi Nico, anni. Sta cercando di trovare qualcosa da cui leggere. No, in realtà ce l'ho, scuola, però ce l'ho, ma sono 4 pagine, le posso come leggere. Il nuovo presidente del consiglio alla camera che non trovava i fogli e ci sono io che faccio la parte di Di Maio che gli dico ci penso io. Lo posso dire brutti questo? Paragoni. No. No, perché bisogna essere precisi, perché l'Eco Slow Road è insomma, è una cosa seria. Allora, esiste un percorso che unisca tutte le realtà ecomuseali del Nord Italia? No, non esiste. Esiste un percorso fatto per le biciclette nel Nord Italia che colleghi tutti? Si parte una puntata di Marzullo. Esatto, no, no, non esiste. Quindi, cosa è successo? Nel nostro viaggio proprio verso la Russia è successo che ci siamo fermati in un ecomuseo del Gemonese, a Gemona del Friuli, appunto in Friuli. è nata questa amicizia con chi gestisce il mulino Cocconi, proprio lì, a Gemona, e alla fine parlando, insomma, è venuto fuori che ci piacerebbe e ci sarebbe bisogno di creare un percorso che colleghi cicloturisticamente tutti gli ecomusei, prima del Nord Italia, poi con quelli della Toscana, insomma, e quindi fare un po' di promozione turistica, ma non solo. È una cosa seria che noi ovviamente prendiamo sempre come il nostro modo di prendere le cose, cioè con divertimento e seriamentissimamente. Adesso continua Iac, così intanto io poi dopo vi leggo due cose allora, da qua, perché sennò no, poi... Quindi cosa significa tutto ciò? Che praticamente ci hanno detto di fare il tracciamento della ciclovia che collegherà gli ecomusei del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e del Trentino Alto Adige. Quindi si tratta più o meno di 450 chilometri. E stiamo proprio in questi giorni. Sì, però 8 miliardi di metri di dislivello. Sì, diciamo che li facciamo in altezza. Con 3 milioni di budget, perché ci hanno riempito d'oro. Faremo questo tracciamento. Siamo ospitati agli ecomusei, ma la cosa bellissima è che praticamente è geneticamente fatta per i riciclabili questa esperienza, perché noi andremo di posto in posto parassitando ogni ecomuseo, perché dovremo purtroppo mangiare e bere tutte le cose belle che il territorio è fatti. E quindi non sono dei paraculi riciclabili. No. E quindi ci prende benissimo mangiare le ricottine del Gemonese, le cipolle, il vino. Mi sono messo in questi giorni a fare tutta l'offerta culinaria, perché ovviamente gli ecomusei sono collegati anche con Slow Food, quindi abbiamo selezionato tutti i posticini e diventa un'esperienza bellissima nel quale non solo lavoriamo, ma facciamo un qualcosa per il movimento lento all'interno di un aspetto, quello degli ecomusei, che secondo me è una delle cose più interessanti per riportare il territorio a essere attivo sulle cose tradizionali. Sì, e loro si staranno chiedendo: ma cos'è un ecomuseo? Secondo me, per precitare Marzullo di nuovo, non è un museo fatto in bambù, ma per queste me le hanno mandate, le leggo perché le definizioni non sono brava a importarle, sono solo mi illumino d'immenso di cose a memoria. È allora, i bigliettini stampate a colori, tra a proposito di eco. Allora, una delle definizioni che mi hanno consigliato di leggere, perché forse tra le più belle, è: un ecomuseo è un museo basato su un patto con il quale una comunità si prende cura di un territorio. Quindi da lì poi siamo andati a ricercare tutti i valori etici degli ecomusei, perché sono davvero delle realtà che difendono tanto le specificità territoriali. È un'esperienza molto importante che è da pochi anni che c'è e non ha ancora visibilità, quindi mi interessa proprio leggere due pezzettini, se posso. Dovete darmi un segno di assenso, così non mi denunciate. Leggo velocemente per capire un po' cosa sono. Allora, essere in grado di leggere il territorio, i suoi valori a volte nascosti, sia materiali che immateriali, comprese le persone, le conoscenze diffuse di una società locale, i savoir-faire di lunga tradizione. Ci si aspetta che un ecomuseo sappia compiere una lettura non banale del proprio territorio per capire le opportunità che esso offre. Questo è bello. 9 ascoltatori. Ora ne abbiamo. Adesso. No, devo leggere la parte finale, scusami. Però andiamo a vedere. Sì, senti questo. 20 minuti. Gli ecomusei sono nati dall'intuizione di persone che guardavano lontano, verso il passato ma anche verso il futuro, che non si accontentavano di lasciare ai musei un ruolo di pura testimonianza. Gli ecomusei non sono nati solo per raccontare il mondo, magari occupandosi di alcune sue parti prima trascurate, sono nati anche per cambiarlo. Porcaccia miseria, sì. E quindi insomma ci piacciono queste realtà che si muovono, insomma. Per capirsi, in Toscana uno degli ecomusei che funzionano meglio in Italia è l'ecomuseo del Casentino. Grande. Quindi anche noi in Toscana abbiamo queste realtà. E niente, e questo è la cosa che faremo quest'estate a Bibbiena, se non mi sbaglio, vero? Sì, allora ogni volta che parliamo dell'ecomuseo bisogna pensare a un ecomuseo, un museo diffuso sul territorio, quindi non ha tantissimo senso dire una località precisa. ma è distribuito sul territorio a seconda delle realtà che vengano coinvolte nel progetto. Quindi spesso e volentieri ovviamente c'è un centro che spesso corrisponde a quello dell'associazione che gestisce o le associazioni che gestiscono l'ecomuseo, però poi dopo si diffonde, quindi ci sono varie situazioni e noi purtroppo dovremo andare a collegare tutte queste situazioni. Esatto, il risultato sarà forse tra qualche anno una bellissima guida per chi vuole andare a conoscere questi posti, mangiare bene, conoscere persone che fanno qualcosa a controtendenza. Stevie Wonder. Wonder Stevie. Stevie Wonder vi accompagna. Alza, no? Sono finite, ragazzi. Le domande? Non sono finite le domande, ne avremo, in verità ne abbiamo tantissime, ma non abbiamo così tanto tempo, caro Denver. Ma noi sì. Voi sì, giustamente, ma intanto scusate, non ci avete detto. Siamo parassiti noi. Noi abbiamo già ordinato un cinese qua, ci stanno portando da mangiare, ragazzi. Non ci avete neanche detto quando partite, fra l'altro. Non diciamo dove, no? Siamo vicini a Fiesole. 17 luglio, la stessa data simbolica dell'anno scorso. Sì, ci ha portato bene, tocchiamoci. Bella storia. Da dove partite? Vabbè, questa volta prendiamo il trenino fino a Gemona. Sì, siamo comodi quest'anno. E da Gemona partiremo per il tracciamento e arriveremo più o meno a Trento, dove ci svaccheremo sulle montagne. Qualche malga di amici a mangiare i pecorini, veramente brutta. Poi queste idee sono proprio pessime. No, un messaggio a chi pensa che sia così brutto, stancante, ci dicono: ma chi ve lo fa fare di andare in bicicletta? Per favore, cioè, ma cominciate, fate piccole cose. Sai, c'ho un'amica. Dice alle mie parti? No. Fatti cazzi tu. Ecco. Questa è la prima. La prossima volta ti fanno siamo troppo precisi. C'ho adesso un'amica con col bambino di meno di un anno e il ragazzo hanno fatto il Danubio col carrellino, uno spettacolo. Per dire, ci sono dei modi di viaggiare con la bicicletta per tutti, noi si vedeva, no, persone anziane, famiglie anziane, dai nonni ai bambini andare in bicicletta. La ciclabile del Danubio quando ho fatto quella è proprio quando ho fatto il cammino di Santiago, ho visto delle cose, i voli umani, anche il camminare. Ora ovviamente ci piace andare in bici, ma siamo dei fan del movimento lento a tutto tondo. Il cammino di Santiago c'era dei soggetti incredibili. Poi col caldo della meseta penso che avete anche qualche visione. Con i miei amici ci travestimmo da donne, comprammo un carretto tipo corazzata Potemkin a Leon perché eravamo stanchi di portarci lo zaino, e obbligai i miei amici incontrati lì sul momento a vestirci tutti da matrone e portare questo carrettino con dentro tutte le nostre borse. Doveva essere una cosa di una giornata e poi questo carrettino che abbiamo soprannominato Mochila Machine è arrivato fino in Irlanda ed era la mascotte di tutto il cammino di Santiago di quell'anno. Ma che bellissimo. Ma riportandomi un po' sul quotidiano, anche perché sulle due ruote. Sulle due ruote quotidiane, perché in punta di pedale ama il viaggio a pedali, ma ama anche il ciclismo urbano, quello che ti porta al lavoro, che ti porta a scuola, ti porta a tutte. Che ciclisti urbani siete? Come vi racconto? Qui cominciamo grande. Io ho tre SUV. Nicolò invece si muove con l'aereo privato. No, a parte gli scherzi, ma allora io sono primo tra quelli che se capita in un social e legge qualche commento contro i ciclisti ci posso passare la notte a infamarlo. Seconda cosa, infatti devo lasciare perdere le cose tipo traffico a Firenze, così perché presto lo sarò anch'io, perché mi sembra una cosa veramente antica quella di pensare che a Firenze il problema sia il ciclista contromano. Sì. Quindi sono un ciclista urbano abbastanza critico, non di quelli che fa non di quelli arroganti nei confronti delle macchine. Uso non solo la mia bici, ma tanto anche il bike sharing, perché muovendomi tanto magari in città vendo una bici da una parte, poi cammino mezz'ora perché mi piace anche camminare, quindi riprendo poi un'altra bici, qualunque mezzo di locomozione a due ruote elettrico, perché non c'ho più il motorino qua a Firenze, adesso lo prediligo e osservo come si potrebbe migliorare la città con la bicicletta. Quindi prima si parlava poco prima nella trasmissione di come sta cambiando Firenze, di come sta diventando sempre più vetrina, e alcuni quartieri prima si parlava di San Mamma Piccolo. Mia, stai sfondando, cioè stai aprendo una porta che se mi scateni vai io ti aiuto, sono qui perché No. La via libera, è... allora, via libera. Sinteticamente io mi muovo solo in bicicletta e treno, nel senso non ho la macchina, quindi faccio tutto in bici. Ovviamente se poi qualche volta si tratta di fare spostamenti più lunghi mi parassito qualche amico con la macchina, però generalmente faccio tutto in bici. Quindi a San Pietroburgo in macchina? No, quello no, però tipo altri giorni sono andato a Baratti in bici, ormai vado al mare in bici, sono andato a un ritrovo di arrampicatori a Sassofortino, sono colline metallifere in bici, faccio tutto in bici. Anche al lavoro ho insegnato quest'anno, andavo in bici fino a Fucecchio, prendendo il treno fino a San Miniato Fucecchio, insomma io mi trovo molto bene. E il discorso di Firenze è che a livello di sostenibilità sta migliorando, ma secondo me troppo lentamente rispetto all'accelerazione che ha il nostro mondo veloce e rapido, perché per esempio facciamo un esempio sulla tranvia, bellissima cosa, però io mi chiedo, ma perché non hanno fatto una ciclabile lungo tranvia? Perché? Perché bisogna ancora vivere con queste ciclabili sui marciapiedi, sul lungarno? Perché mi devo litigare finte ciclabili fatte per prendere fondi europei così? Cioè, il fatto è che il mondo si muove a una velocità che non ci lascia la possibilità di crescere così lenti nell'aspetto del sostenibile. Non basta sbandierare alcune conquiste sul sostenibile per dire che siamo a posto, perché in realtà poi di converso l'altra faccia è un mondo che va velocissimo nell'autodistruzione a livello dei trasporti, quindi bisogna muoversi più veloci e approfittare di alcuni stravolgimenti della città come la tranvia per fare delle vere arterie ciclabili per risolvere il problema. Sul discorso dello svuotamento, guarda, ora per fortuna ho saputo che l'assessore, non mi ricordo se era una cultura o insomma comunque la giunta di Firenze ha fatto una serie di regolamenti che difendano le attività tradizionali, forse riusciamo a salvare il salvabile. Ormai il centro è solo per turisti, vediamo se uniti possiamo salvare alcune zone come l'Oltrarno, che secondo me hanno ancora... Guarda, io ogni mattina faccio per andare al lavoro, faccio passo da Via del Campuccio. Bravo. Sembra di essere da Lorenzo, passi dalla ciclofficina di Lorenzo. Sì, passo di là Tasso. C'è una marea di gente coi trolli e tutta quella via sono tutti Airbnb. Però al di là perché poi c'è anche questa idiosincrasia di dare addosso ai turisti, no? Del turista. Sì, però quando abbiamo la possibilità, sì. No? Poi invece però sul danno vero che è appunto lo svuotare la città e perdere spazi sociali. Da noi il turista vuol fare sì. Ma... E poi la Firenze ha le caratteristiche in realtà proprio per diventare una vetrina di buone pratiche anche ciclo turistiche, ragazzi, perché volendo, non è che volendo si può fare tutto in questa città. Parlando anche di mondeggi e delle realtà associative di sostenibilità. Le critical mass, cioè bisogna farne una al giorno qua per educare evidentemente. A questo proposito, fra poco chiameremo la critical mass Prato, però mi preme ricordare che giovedì ci sarà la critical mass fiorentina, il rituale dell'ultimo giorno del mese, e poi ci sarà una critical mass domani assieme alle mamme Noncine Editore. La critical mass seguirà la manifestazione delle mamme Noncine Editore, dell'Assemblea per la Piana e di tutti i comitati, che festeggeranno un po' la vittoria del Noncine Editore, ma anche rinnovano, diciamo, l'impegno a preservare il Parco della Piana da altre attività, diciamo, altri progetti abbastanza impegnativi. Ora, ti ho interrotto, ho colto la palla al balzo perché sennò me ne dimenticavo. No, ma hai fatto bene. Ma io direi che forse hai fatto bene a interromperli, nel senso che i nostri tempi non sono così larghi, perché loro sì, però... quindi se siete d'accordo, io, visto che avete introdotto l'argomento sotto tanti punti di vista, perché avete parlato della città, avete parlato della sostenibilità, avete parlato dei flussi di turismi, avete parlato quindi un po' di quello che stanno portando avanti le mamme Noi Inceneritori e l'Assemblea per la Piana, e quindi se siete d'accordo io vi introduco il tema con una canzone e poi ci sentiamo ai mamme Noi Inceneritori. Riciclabili, rimanete con noi perché rimanete con noi. Oh yeah. Per sempre riciclabili staranno qui. Sempre. La canzone è Elio e le storie tese con Parco Sempione. ci arrivate, cioè siete veramente un pubblico molto pronto, molto attento, quindi vi siete accorti che alla voce femminile anche in questo brano c'era Paola Folli, mentre la belva del rock and roll è subito stata accompagnata in gabbia da un addetto. Mentre il sottotitolo del prossimo brano potrebbe essere Speriamo che lo arrestino. Senti un pim pam pum, un fricchettone, forse un drogato, suona e non smette più. Oggi questo fatto mi chiuda, perché suona di merda, non ha il senso del ritmo e non leggo più il libro. Quasi quasi mi alzo, vado a chiedergli perché ha deciso che cazzo proprio oggi niente lo fermerà. Yatta la costi bon, non siamo mica in Africa, porti i capelli lunghi ma devi fare pratica. Sei sempre fuori tempo, così mi uccidi l'Africa, che avrà pure tanti problemi ma di sicuro non quello del ritmo. Caro signore, sa che le dico, questa è la libertà. Sono drogato, suono sbagliato, anche se a lei non va. Non vado a tempo, lo so da tempo, non è una novità. Io me ne fotto, cucco di brutto, grazie al mio pim pum pam. Poi questa cosa mi turba e mi sento di merda. Quasi quasi mi siedo ed ascolto un po' meglio, forse forse mi sbaglio, forse ho preso un abbaglio, forse forse un bel cazzo. Fai cagare, questa è la verità. Ora ti sfondo i ponti per vendicare l'Africa, quella che cucinava l'esploratore in pentola. Ti vesti come un rasta, ma questo no, non basta. Sarai pure senza problemi, ma di sicuro c'hai quello del ritmo. Uè, te tiri una pesciata in equip e vai a fare rap. Te pote venduva tu circola. Ecco spiegato cosa succede in tutte le città. Io sono i bonghi, tu me li sfondi, di questo passo dove si finirà? Ecco perché qualcuno pensa che sia più pratico radere al suo bosco considerato inutile. Roba di questo tipo non si è mai vista in Africa, che avrà pure tanti problemi ma di sicuro non quello dei boschi. Vorrei suonare i bonghi come se fossi in Africa, sotto la quercia nana in zona porta Genova. 16.000 firme, niente cibo per Rocco Carica, ma poi il bosco l'hanno rasato, mentre la gente la mia per il potere. Se ne sono battuti il cazzo, ora tirano su un palazzo, ha distrutto il bosco di gioia, questi grandissimi figli di Troia. Alla voce femminile ancora una volta, Paola Folli! Al telefono di Radio Wombat abbiamo Milena, attivista delle mamme non inceneritori, l'abbiamo già sentita ai nostri microfoni, e ci aggiorna sulla situazione e ci rimanda a un evento molto importante di fra due giorni, mercoledì 27. Buonasera. Pronto, Milena? Allora, sì. Ciao, buonasera. Eccomi. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, dicevamo, mercoledì 27. Sì, mercoledì 27 è una giornata particolare, molto importante. L'abbiamo scelta anche perché, insomma, durante il weekend magari la gente va giustamente a rilassarsi al mare. E un orario dopo gli orari usuali di lavoro, quindi alle 19, c'è un appuntamento molto importante al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino e un altro alla stessa ora, praticamente nella strada, stessa strada, di fronte dove c'è il presidio, non inceneritori ma aeroporto. E comunque l'appuntamento principale è quello al Polo Scientifico. Cosa succederà? Ci snoderemo lungo via dello Smannoro verso Sesto Fiorentino per fare un abbraccio simbolico a questa zona di Firenze che è stata presa di mira, è stata trasformata in un bersaglio dove vogliono fare una colata di cemento mostruosa, immensa. Non si limiterà a fare solamente l'allungamento della pista dell'aeroporto, ma sarà un progetto unico, e questo agli abitanti che sono massacrati dai sorvoli sulle case, sui posti di lavoro e sulle scuole di Peretola, Brozzi e Quaracchi non lo dicono chiaramente, ma non ci sarà solamente l'allungamento della pista parallelamente all'autostrada, quindi non ci sarà solamente questo metaforico, questa metaforica risoluzione dei sorvoli sulle case. L'allungamento della pista si porterà dietro un aumento dei voli degli aerei e anche aerei molto più potenti e quindi molto più inquinanti, e in più ci sarà abbinato all'aeroporto anche lo stadio, se no non ci si spiega come mai Della Valle si disturba tanto a utilizzare il cartellone elettronico dello stadio durante le partite per invitare i tifosi e la cittadinanza ad aderire al comitato sì aeroporto. No? Ecco, il comitato sì aeroporto l'abbiamo visto, è nato da pochi mesi. È nato da pochi mesi ed è un comitato ovviamente promosso e inventato da Confindustria e da tutti gli industriali e palazzinari che hanno in mente questo progetto. Fra l'altro penso proprio che loro non abiteranno poi nella piana, non si beccheranno tutto il disastro conseguente che ci sarà, perché loro hanno in mente di fare, come dicevo, oltre all'aeroporto anche lo stadio. E insieme allo stadio vogliono fare centri commerciali, alberghi di lusso, appartamenti, chi più ne ha più ne metta, per un totale di chilometri quadrati di cemento che sarà più grande del centro storico di Firenze. Praticamente verrà un'altra piccola città in quella piana dove ci sono solamente l'autostrada, Viale Guidoni, via di Brozzi, via di Peretola, via Pistoiese, quindi le strade saranno sempre quelle che già sono intasate adesso, non ci si gira, in più mettici centri commerciali, alberghi, stadio e aeroporto immenso, la gente viene fregata per la sua disperazione giustissima del baccano e dell'inquinamento che c'è adesso, ma non hanno in mente cosa vuol dire in questa piccola piana già inquinatissima un disastro di questo tipo. Assolutamente, fra l'altro l'aeroporto, insomma, voi uscite da una lotta conclusa almeno in parte molto di recente con l'inceneritore che vi ha visto, insomma, portare veramente avanti delle iniziative con un grande successo, fino addirittura arrivare poi all'ultima sentenza del TAR. Quindi ricordiamo anche che la vostra lotta si sta concentrando, sta andando a concentrare concentrandosi sulla questione proprio dell'aeroporto, che fra le altre cose porterà anche a un'ulteriore invasione delle strade fiorentine di turisti a decine di migliaia. Certo, quindi, perché poi il bello è scoprire queste contraddizioni basilari che hanno nel cervello i padroni del territorio, no? E da una parte si lamentano che l'economia locale, che la nostra cultura, i nostri artigiani, le nostre piccole botteghe antiche della cultura fiorentina vengono distrutte, ma da chi? Da cosa vengono distrutte? Non dai cinesi o dai mini market degli stranieri, vengono distrutte da questi immensi centri commerciali dove vendono chilometri e chilometri quadrati di paccottiglia o scatolette di cancro e cacca. È lì che c'è la distruzione della piccola economia locale e vogliono farne ancora. Fra Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Novoli, di centri commerciali io penso che ce ne sia una concentrazione abnorme. Oltretutto abbindolano la gente, è per questo che i cittadini di Peretola, Brozio e Quaracchi hanno abboccato e vanno a rintinguare le fila di questo comitato sì della pista, perché sono giustamente disperati e questi li abbindolano con lo specchietto delle allodole. Ah, che non hanno più gli aerei sulla festa, vabbè, ma ce l'hanno dietro la schiena, e per di più con un inquinamento folle, perché dimmi te se inquinano le macchine quanto possono inquinare gli aerei. E in più i posti di lavoro. Ma quali posti di lavoro? Si sa benissimo che nei centri commerciali e in questi bidoni immensi la gente viene presa con dei contratti di lavoro che sono delle bufale da medioevo e da schiavismo, che oggi ci sono e domani non si sa. E quindi noi ci si concentra sì sull'aeroporto, però bisogna dire che come comitato non sceneritore siamo solo all'inizio. Certo, perché la cultura della gente non è ancora stata educata a stare attento, la persona, il cittadino per primo, stare attento alla sua salute e al suo territorio, mettendo dove deve mettere rifiuti intanto. Poi se non parte per bene il porta a porta con la tariffazione puntuale, non si va da nessuna parte. Quindi i gestori di Alia, o quelli attuali che hanno sempre fatto casino fino adesso perché volevano l'inceneritore e l'hanno fatto apposta a non far ritirare per bene la merce e i rifiuti e a lasciare questi gassonetti puzzolenti e schifosi traboccare per mandare la gente all'esasperazione e far invocare l'inceneritore. Quindi oggi a notte gli amici sua si tolgono di torno o cambiano tendenza, perché qui deve essere fatto il porta a porta per bene. Prima tutto a livello culturale ed educativo, poi specialmente nelle scuole, nei supermercati, nei centri commerciali, proprio lì. Ecco, ma torniamo al 27, non abbiamo finito di presentare l'evento. Allora, l'evento sarà così, alle 19 il 27 al Polo Scientifico. Facciamo questo metaforico abbraccio alla nostra piana. Quindi ci dislochiamo mano nella mano verso Sesto Fiorentino da una parte e verso lo Smanoro da quell'altra, e questo abbraccio immenso, cerchiamo di essere tanti, di essere più possibile, perché nella piana in realtà era progettato un parco apposta, perché era stato individuato come un punto dove poter fare il secondo polmone verde della città, oltre alle cascine, perché altri non ce ne sono. Addirittura già era stato nel 62 la FIRA decise che l'aeroporto non doveva essere fatto nella piana. Pensa te, già nel 62 era stato individuato come punto per fare un parco, l'aeroporto non doveva essere fatto nella piana, facevano il check-in alla stazione e il treno portava in 45 minuti davanti alla porta del terminal di Pisa. Questa è stata una crescita, non solo inopportuna, lo dico per non farmi tirare dietro altre cose, ma è quasi ignobile, perché non doveva essere stato assolutamente aumentato il numero di voli che c'è adesso. Era proibito fare il numero di voli che c'è ora. pensare già nel 62. Pensa te, il 27 giugno alle 19 si parte dal presidio, dal polo scientifico, dopo ci si ritrova al presidio per fare una cena condivisa tutti insieme e anche un po' di musica. Suoneranno gli Scandalo Sobrio e i Foneno. Sono dei gruppi fiorentini già rodati benissimo, molto simpatici, molto belli, e quindi sarà un impegno importantissimo di responsabilità e anche poi un momento di scambio di idee, di convivialità. Anche le foche bevono Radio Wombat. Briquet. Orgullo nacional, patriota virtual, héroe militar, xenofobia, muñeco demencial, parálisis mental, escoria cerebral. A la mierda, reaccionarios. Ragazzi, un po' di ska, dai. Forza, lo punziamo. Ebbene sì, l'avete sentito, le mamme non inceneritori, ma noi dobbiamo aggiungere che ci sarà una critica al mass, abbiamo già anticipato, sarà una critica al mass che aiuterà. Seguirà ma la catena umana, mano nella mano, che difenderà il parco. Esatto, le biciclette al servizio del parco per la piana, viva! Viva, noi l'aeroporto non lo vogliamo, lo ripetiamo e lo ripeteremo sempre, non lo vogliamo. Un vi si farà fare, come dico loro. Grandi. Comunque la foca. La foca. Fate come, fate come la foca. Bevete Radio Wombat se ci riuscite. Cosa abbiamo in programma adesso? Allora, in programma adesso siamo un po' in chiusura, siamo quasi prossimi alla chiusura. Abbiamo gli ultimi. Le ultime cosette. Abbiamo ancora i riciclabili qua che non sono andati via. Non ce ne andremo mai. Non se ne andranno mai. Noi chiuderemo i riciclabili dentro la rubia la regia, almeno fino al 16 di luglio. Riciclabili nella tana del Wombat, ne provo. Chissà cosa combinano. No, abbiamo lanciato la critica al mass di giovedì, stesso posto, stessa ora, Piazza Santissima Annunziata, ritrovo alle 18.30, con partenza alle 19.30. È una critica al mass particolare, perché Denver? Perché si illuminerà la luna, cioè il 28 giugno ci sarà la luna piena, quindi si pedalerà finché non spunta la luna. Esatto, abbiamo qui un lupo nella tana di Wombat. O era il Wombat che faceva il lupo? È il Wombat che è in scatola. È l'uomo scatola, scatola, probabilmente. È un ibrido, in qualche caso. Pranzo al piazzale, cena al piazzale e poi si continua a pedalare. Bellissimo, dalla cena al piazzale. Bellissimo. Ognuno si porta qualcosa e si mangia su. Non è offerta, i riciclabili parassitano, non si abbassano. potrete poi parassitare. Abbiamo bisogno di 10 pasti voi umani. No, ci sputiamo su. E poi naturalmente abbiamo la Critical Mass di Prato, che sta attendendo il collegamento con noi. Che adesso la chiamiamo. Ora, la Critical Mass di Prato si ostina a fare la Critical Mass il martedì. Il martedì, proprio durante il punta di pedali. Cerchiamo di convincerli, no? Non la fate, perché sennò poi vi dobbiamo chiamare. Certo. E poi naturalmente vi rubiamo ascoltatori. Ci sono ascoltatori che non vengono alla critica per ascoltare Radio Wombat. Cioè veramente un grosso contrasto. Ed ecco che parte la chiamata comunque alla massa di Prato. Io... Massa partita, ripartita da poco, secondo me sono un paio di mesi che è ripartita la massa, sono venuti in grande. Abbiamo il nostro inviato alla massa di Prato, lo abbiamo al telefono. Bene, allora stiamo cercando il modo di collegarlo. No, ce la facciamo, non vi preoccupate. Ci ci siamo, stiamo attrezzando i potentissimi mezzi del Wombat. Abbiamo staccato un cavo, poi andremo a riattaccarlo molto presto nel nostro amabile smartphone che ci collegherà con il nostro amico Pratese. Allora, ci senti, Edoardo? Benissimo, allora vediamo se vai adesso in diretta. Ci senti? Non lo sento. Eccolo. Pronto? Ci sono. Eccolo, ciao Edo. Ciao. Allora, ciao. Come sta andando? Siete partiti? Allora, siamo partiti, sì. Non so, dai, mi metto vicino alla soundbike, magari si sente qualcosa. No. Perché sì, siamo già abbiamo un audio precario. Qual è il programma di questa sera? Allora, niente, ora facciamo un giro e nulla, ci piacerebbe. Venerdì scorso siamo stati appunto a questa festa di strada, c'è stata a Prato in via Pistoiese, che è la nostra piccola Chinatown, e vogliamo tornare a passare di lì, insomma, abbiamo avuto un po' di legame con la comunità cinese, ci piaceva ripassare, anche se stasera, nonostante i nostri sforzi, non c'è nessuno cinese in bicicletta, però insomma, vediamo se in futuro... Sono passati al sub, ti devi aggiornare, eh? Sì. E poi niente, stasera facciamo una cena fuori insieme e rientriamo di notte. Come sta andando la rinascita della massa di Prato? Come i numeri cosa dicono? No, dai, sta andando bene. I numeri sono abbastanza buoni, dai, siamo sempre una quarantina, un po', poi c'è un nocciolo duro che cresce piano piano. Grandi, dai, che a Prato c'è proprio bisogno di massa. Sì, infatti, c'è tanto bisogno e c'è anche tanto bisogno di riuscire noi a farci conoscere un po' di più, insomma. Beh, dai, stai facendo un bel lavoro. Sì, io penso che stiamo lavorando abbastanza bene, ecco, poi piano piano ci arrivano sempre occasioni in più per farci conoscere, come questa di venerdì, che abbiamo potuto mettere questa ciclofficina per strada, poi ci sono arrivati anche qualche invito che noi lo sfruttiamo, insomma, ci danno visibilità e... Stiamo cercando anche uno spazio nostro, ci piacerebbe riuscire anche noi a fare una cittadina popolare. Vediamo se piano piano ci riusciamo. Beh, allora ti lasciamo pedalare e noi ritorniamo in trasmissione. Buona serata e buona massa. Va bene, ma grazie a voi per lo spazio che ci avete dato. Ciao Edo. Buona serata, ci vediamo presto. Ciao. A presto, ciao. Ebbene, avete sentito gli amici pratesi della Critical Mass che fra l'altro insomma sta rinascendo in diversi posti, non solo a Prato, anche a Torino è tornata la Critical Mass giusto qualche mese fa, il mese scorso se non mi sbaglio è riniziata e noi ripartiamo con lo ska di Scapè. Avete sentito in sottofondo alla merda, ma continuiamo su Note Calde. En el barrio la cachimba se ha formado la corredera. Ciclabili, forza, al microfono che vogliamo sentire. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Anche con la voce, non solo con i piedi e con i pedali, signori. Questi sono i riciclabili. Ma riciclabili, un'ultima domanda ve la voglio fare: ma perché vi siete riciclati in un certo senso a ciclisti, oppure perché avete intenzione di riciclarvi, oppure vi ritenete riciclabili? Cioè, cosa aspetta il vostro futuro? Siamo riciclabili sicuramente, perché siamo compostabili. Perché siamo fatti, esatto, siamo compostabili. E poi perché andiamo in bicicletta e ci andiamo due volte, quindi ciclabili e poi boh, di qualche altra cosa degli qualche altro. Ho già detto un paio di altre. In realtà poi non l'ho inventata io, questa cosa avete inventato già. Quindi io scarica barile, sì. Ci piace. Ecco, me l'abbiamo detto fra l'altro che ci sono altri riciclabili. Non so. Sì. Sì. A parte riciclabili è un modo di vivere e di viaggiare, quindi chiunque si unisce a noi diventa un a fare un viaggetto diventa riciclabile, quindi c'è... anche se non lo sa, anche se non lo sa, ma è obbligata a diventare. Gli arriva la maglietta, gli arriva tutto a casa appena il kit. Tra l'altro le magliette sono belle, le potete chiederci, le mandiamo con il logo appunto fatto da Giacomo, sì, che è un altro riciclabile dalle origini, il nostro grafico incosciente, e ha fatto un anche la musichetta che non ce l'abbiamo ora. Ecco, ma se uno volesse poi Cesar che ha fatto anche lui una parte con noi, c'è Marco che aveva seguito tutta la parte Facebook, l'imperatrice che è venuta con noi un po' in bicicletta, insomma siamo un gruppetto, lo zoccolo duro siamo io e gli altri. Ma ecco, ma se uno volesse seguire il vostro viaggio da dove è possibile? Beh, Facebook e il sito internet. Faremo degli interventi aggiornando tutti gli ecomusei che passiamo, quello che mangiamo, solito Ambaradan di riciclabile. Anche l'anno scorso abbiamo bombardato su Instagram, su Facebook, poi abbiamo anche diversi sponsor, quindi comunque dobbiamo mantenere le nostre promesse, se no non è giustificato tutto ciò, quindi insomma sì. Okay, riciclabili.net. Riciclabili.net, la pagina Facebook Riciclabili e basta. Sì, che poi viene fuori, quando uno mette riciclabili viene fuori cose le roba del riciclaggio dei materiali. Mi raccomando, mettete .net, perché se no non ne uscite più. Potreste andare insomma fuori strada. Bene, ascoltatori e ascoltatrici, noi siamo in chiusura. Ah, siamo riusciti a zittire. Siamo riusciti a esaurire le parole, il fiume di parole che potrebbe uscire dalle bocche. Stacchiamo il microfono. In verità no, hanno finito i bigliettini. Più da dove leggere. Ora comincia. Io ho un'intera gente. Finisce il punto dei pedali e comincia riciclabile.uomo. È parassita, ci rubano il lavoro, vengono a rubarci virus. Il lavoro. No, grandi, grazie mille Wombat. Grazie a sempre voi. Sempre così. Ci rivedremo on the road. Ci vediamo nel caso nostro, sì, no? Ci sentiamo on the road. Vediamo nel futuro un collegamento. Ovviamente poi ci vediamo alla Critical Mass. Alla Critical Mass, questa magari subito. E una diretta quando ci stiamo sfondando di Canöderli. E magari potremo anche fare una diretta. Se abbiamo un martedì buono, dove noi siamo in regia e voi siete a mangiare, potremo sicuramente fare. Tutti i martedì staranno a mangiare. Cioè, che tempi avete previsto per percorrere i 450 km? Allora, e per ingurgitare? Sono questa volta 50 km al giorno, perché l'altra parte del giorno è tutta impiegata a mangiare e a bere, quindi sono più o meno 7 giorni con altri 7 giorni di scavolo totale, nel senso sono 7 giorni di percorrenza e 7 giorni di cuscinetto. Sì, vogliamo approfittarne, far trekking, andare a conoscere le varie realtà. Sì, trekking. Si dice così, no? Si dice il pan di Cork di Gemona, la cipolla di Cafasso. Non vedo l'ora di mangiarle. Abbiamo una lista di 350 varietà culinarie. Beh, che invidia, però, fra l'altro. Per paese, per regione, ovviamente. Ci credo. Bene ragazzi, noi si chiude, continueremo a seguirvi, faremo sì che anche i nostri ascoltatori lo possano fare. Questi erano i riciclabili, qui accanto a noi, a me, abbiamo Denever. Salve. E Bricobaldo vi salutano con un ultimo pezzo, si tratta degli After Hours, la gente sta male. Ciao a tutti. Dedicata ai riciclabili. Grazie. Ciao. Lascio quello che ho, sento che crescerò, vivere male prima o poi ti fa male. E tu vedi com'è un sogno là, non voglio ciò che hai. Credi di far sognare, e la verità è che la gente sta da da da.